canale 10, CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Si è avanti? CQ canale 10, CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Buonasera, signor Natalino. Buonasera, chi è lei? Si identifichi? Sono il signor Franco. Ciao. Ciao Natalino, come stai? Sì. Meglio di come stavo, ma sicuramente. Questa non sarei passata in pieno proprio, eh. Brutta era. Speriamo che sia finito questo picco di influenza, boh. Tanto mi domani deve venire un operaio a casa e ieri non è venuto perché aveva impestato e stava male, oggi non ci do io. Speriamo che non me l'attacchi domani. Oh, li tira mascherina! Mi che per aprire! Non lo so, dice che la freddore secondo lui questo qua, ha preso corrente piazzando roba qua. E mio non era il raffreddore, altro il raffreddore era, ma che pare. E gli altri che dico che non ci viene neanche a parlare, ma tutti e due poi ha beccato, no? Eravate tutti e due, marito e moglie. Tutti e due, e veniva un'amica di mia moglie a aiutarmi qua, dicendo quello che ho fatto io, manco fai caso, qualche giorno. Pensa quanto era brutto. Poi ci avete anche dei miei animali in casa, quindi dobbiamo portarli anche fuori. Infatti, anche se l'ho portato a fuori questa amica di mia moglie, la cosa che mi è morta la gatta e l'hanno avvelenata. Maledetti. E come, ma ce l'avevi in casa o fuori? Fuori casa? Ah, è uscita da 5 minuti l'ho trovata morta. Non era investita, no? Gente passata, è da queste parti, da. Sì, da tutto ce n'è. Anche qua ce ne succedono cose brutte in questa zona. Sapete che noi che siamo lontani noi. No, via, quello che va, purtroppo. La mamma di imbecilli è sempre incinta, ne sforna sempre, ma no. E poi una brutta notizia, mi torna, mi hanno chiamato all'Inps per revisionare l'invalidità, e mi faccio una rabbia, ma non lo so se ce la faccio a fare quelle due visite specialistiche per portargli i certificati recenti. Perché invece di giugno me l'hanno mandata al 20 febbraio questa visita, ma dimmi tu, ma io dico sono macchina. Adesso vediamo se mi telefono la segretaria di quel cardiologo a mettermi in mezzo prima del 20, perché glielo ho detto che c'è la pensione. Come non mi voglio avviare appuntamento a chi non va giù quelle due ricette che ci dà. Andato dal medico a canto di raggio guarda quando vai e da qui ha telefonato anche io ed era la segreteria telefonica, ma già mi ricontattano loro e se no ti mando la telefonata mi vanno a mangiare, no, ma non le mancano mai tutti. E perché ti sospendono la pensione e dopo pensione cazzo che se tu ci si chiudati. Sì, quello che è, però anche quelli servono, Natalia. Ti credo, già prende poco mia moglie. Se non c'era stato quel pochettino che danno a me, guai, Sto dicendo, non ce la facciamo a arrivare a fine del mese, perché sono buchi, tu. Tu devi sapere più cara, tu firme proprio, stavo mettendo su bollette, mai viste bollette così alte, tu? Ehi, solo le bollette. Ma pure un coso di rugegulare, hanno mandato un coso dalla porta con chi buona unità e cose, tu? Sì, buona con team, anche a me alla Winnie mi è arrivato oggi, che da aprile potrebbe, ma sicuramente, aumentare qualcosa. E vadano qua, ne ho le scatole piene, allora mi tocca andare dai correnti, da qua, poi mi scade la patente, mi scade il portolano, un macello. Per quanto riguarda il telefono, siccome passano da 28 giorni, passano a un mese, e quindi diciamo che la team aumenta dell'8%, non così, la scuola fa un 7%. In teoria, io se ne pago 5, dovrei pagare 5,40 euro. sta la moto, spero. Sì, speriamo. Attenzione, sono d'accordo, insomma, lei, insomma. Adesso, quando io ho fatto il contratto, c'era già la legge che non potevano fare contratti di 28 giorni. Ma cosa me l'hanno fatto? Tutto fatto con lo scopo, intanto si prendono un cliente, no? Con quella tariffa, e poi dopo qualche mese te l'aumentano. E tu, con un piede qua, un piede là, non sai cosa fare, e alla fine cosa fai? Poco per poco paghi e rimane così. E infatti, loro ne abusano. Ma ho visto che in questi giorni non stanno entrando più nessuno, tu? Non si sono stufati. Anch'io non stai andando molto. Problemi qua, lavori là, alla fine il tempo che è quello. Adesso mi sono rientrato, e tu stai chiacchierando, a vedere. Allora, c'era anche un'altra portante prima di te. Ma se non rispondono, io gli dico avanti e non rispondi, Nevra, cosa vuoi ti dica? L'hai avvertita anche tu, sì, l'hai sentita anche tu. E allora? Stavano così, portante, gli avanti, se non si presenta, cosa vuoi ti dica? Non attende più e quando è più stanca si stanca. L'antenna è sempre quella che hai, sì. Via, sempre quella. E dove vuoi fare un super perfetto? Allora tu non mi farà all'aria sicuramente. Perché io sento una cosa che era freddo e il cielo era tutto nero. Sì, stamattina non sento, era bagnato. Sicuramente con cosa un po', ho capito un po' la fa. Che la messa con un po' di acqua, allora la domanda tu? Non so cosa fare. poi adesso un consiglio che le do, vada a Piandanna, all'ufficio delle entrate, e faccia una ricerca, vede come è messo. Infatti, paghi solo ed esclusivamente da quando è intestata a te questa macchina, se no ma con revisione si fanno, sono quelli da pagare, va. Occhio, sta quella legge. Infatti voglio pagare l'anno che ce l'ho io. Io non so. Proviamo anche questa carta di Piandanna, vediamo da cosa ne esce. Di sera apre, tu? Non so nemmeno, io da mattina lavoro. No, ci va mio figlio, gli chiedo una cortesia a lui, si può avvicinare lui. Mi spiega le ragioni che tu la macchina ce l'hai da troppo tempo. A vedere quando è la scadenza è tutto. Così la macchina è tutto e lo vai tu. A chi ci vai pulli non pagati, da quando è intestata a te? Non ti fanno la revisione questi bastardi, Infatti io mi sembra che la revisione devo farla a luglio, quindi entro luglio io devo essere sistemato con questo posto, no? Ti hanno imposto di stare in telecamere, non ti passa la macchina di stare in telecamere, in modo che sono sicuri che esista la macchina che prende la revisione, hai compreso? Perché prima facevano truppi intrallati, invece li hanno scoperti, allora o hai visto la macchina o non hai le visioni, e poi stanno mettendo da fare dei bolli, un sacco di marasussi che l'hanno fatto. E ormai anche la polizia non si ferma, si puntano con il laser e stanno già, viste i miracoli della tua macchina, se hai pagato, se non hai pagato. Per forza, c'hanno il sistema mercurio e praticamente gli dice tutto. C'è assicurata, vabbè, c'è assicurata, ce lo vedo anch'io, basta mettere il numero di targa, ci sono sempre i programmi online, non si dice che la macchina è scoperta. Ah, ma come fai il sistema d'assicurazione? Gira io a faccio la ricerca, o sai che si ha assicurazione fasulla e risulta che non sono assicurato, se li oggi lui ha descartato, come viene fatto il controllo incrociato, parlo di sicuro. Infatti mi hai messo la pulce nell'orecchio, fra. Sono sentito un sacco di gente che era convinta di essere assicurata, invece chi tu si pigliava di là e stampava i cartellini falsi. Infatti non c'è da fidarsi di nessuno, ma c'è però qualche agenzia intruscia e le prova tutte me. A te ti dati un puglio senza alcun valore e tu sei convinto di essere assicurato, per la polizia ti dici che sarei già avuto una macchina o tu dati. Quello è il minimo, sembra che anche incidente devi pagare tasca. Minchia, tu sai a che gente sei arruinato. Se ammetti che amate a Berlusconi, se sei vita, non una vita, 5 vite travaglienti. Ovvero. Adesso faccio il controllo, cerco un'app di quelle, dal telefono stesso mi dice se sono assicurato. Sì, ce ne sono un sacco. Io le ho tutte cancellate perché mi stavano fanno un sacco di memoria, le app che non mi servono. Adesso però accerco il modo che mi serve, mi serve vita, morte e miracoli. Il computer poi l'avevi sistemato? Il computer già sta andando, non l'ho sistemato perché c'è la scheda madre che vuole cambiare, ma come io sono andato soldati ero in casa e l'ha distrattato di piedini, allora l'ho messo in un'altra presa, quello che dovevo mettere, e sta funzionando, se non si qui è bagliando adesso, la macchina non viene a fare, se no me l'avrei già fatto. Penso che ci siano programmi anche direttamente dal computer di casa, li metti i dati senza toccare il cellulare. Sì, adesso provo. Ho preso per il telefono ed è uguale. Sì, spero che non ha preso anche io. Sì, infatti, anche se ho cambiato questo me ne do un bel, qui da questa RCA, verifica RCA Italia, 4,5, poi c'è chiedo scanner veicoli, 4,7. Adesso app per controllare targa e assicurazione di ogni veicolo, auto e moto, nel computer. Sì, infatti, anche lì lo puoi fare. Adesso controllo. Stavo guardando. Sì, tanto non devi scaricare niente, devi mettere i dati e basta, no? No, no. È un app. Questo è verifica RCA che permette di vedere. Prova a guardare il portale dell'automobilista, cosa ti dà? E quello già ce l'ho. Digitare questo, a me me lo sta dando anche sul cellulare, quindi probabile che te lo dia anche per il computer. Mi chiede già la targa, seleziona il tipo di veicolo e poi devi mettere un numero che ti danno loro, no? Un numero mezzo camuffato, è quello per non far giocare i bambini. Controllo veicoli assicurati, agitati online, vediamo. C'è qualcuno su 10? È pieno. Buonasera. Ciao Gianni, Franco e compagnia di Natalino. Ciao Natalino, ciao Franco. E allora? Perché stiamo controllando se le assicurazioni che abbiamo pagato sono coperte. Non sta mai nella vita. Comunque tutto bene, adesso, dai, diciamo così. Io rispondiamo a 76. Invece ho cambiato macchina, ho preso una più piccola e invece paga di più. Perché è nuova? No, perché loro guardano, se tu loro inseriscono i dati e poi in base alla macchina, al tipo di macchina, se nelle statistiche quella macchina crea più incidenti e più spese, paghi di più, anche se è più vecchia. No, io ho cambiato assicurazione perché mi ha sparato 240 euro per 6 mesi. 480 euro all'anno, è un pezzo. E allora sono andato alla assicurazione, non ha risultato. Ho fatto un quarentato e ho risparmiato 70 euro. Io pure l'ho cazzato. Però è lui meglio controllare, ma se già mai si venga a neridina a casa e ha detto che è una cosa falsata. Guardato, vai Natalia. No, qua non ci sono riuscito, la faccio per il telefono e faccio prima. No, che cazzo, è un caso. No, per baracchino non conviene, se no la radio trovo io, là. No, la mamma la scarica. Di un attimo. E che stavo andando? Io vado a guardare, mi chiede, non mi sento qui, lo sento, quando sta vicino, guardando a una amica sua. Della banca, ancora c'è una banca. Esatto, è proprio quel controllo che ci abbiamo. Sì, non costa nulla fare un preventivo, appena ne ho qualcuno in scadenza. Io non pago tanto, però a volte risparmiare non fa male. La purità non ce l'hai? Ne ho un altro adesso. E che cosa hai preso? Ho sempre purità, no? Certo, uguale. Sono un po' più piccolo di utilizzata. No, no, negativo, sempre un'occasione, dai, adesso l'ho sistemato un po'. Sta pagando, sì. Ci ha passato il turista, dai. Sì, a me piace andare a pescare lì a Mare del Curi, e poi la domenica con gli amici. Mi piace fare un po' di terrazzo. Anche domenica ci facciamo uscire di approvare lì a Portoferro. Sono un po' due pescate di rosso. Ma no, ma dentro le fine. Sì, nelle fasce. Pare che ci sono tagli a poco, no? E io lì avevo fatto con l'Erdogan, avevo trovato, ci avevo chiamato la prefettura, c'era una simulazione di un tipo che era a Roma, c'è stato un radio che stava arrivando con la barca, eccetera, eccetera, siamo andati a cercarlo di notte, mi sono occupato di me. E se ci chiedi che c'era, di notte scappato, c'è quel paletto. Defender, dai. Esatto, quello con farlo sopra, che si accende. Ma adesso che abbiamo un'altra, ce ne hanno un'altra. Adesso siamo un'altra per prima ci avevano, l'abbiamo cambiato sul colore, basta, l'abbiamo fatta color verde militare. Pesanti sono, poi sul 4x4 pesa, perché c'hai il differenziale centrale, il differenziale posteriore, quattro ruote motrici, non so se quelle ce l'ha sempre in sinistra, che sempre la tenderò. Io con la mia posso andare anche a due ruote, già risparmio qualcosa, però il Defender è già una bella macchina, poi alta la terra, già va dappertutto. Fatto Franco, fatto anche la, quando ho fatto la revisione, ma adesso a posto? Cappa, vai lì. Domani quanto ne abbiamo? Uno San Paganino. Aspetta che devo chiamare, che devo fare la revisione adesso, me lo ricordate, aspetta, fa la revisione alla mano. Ho fatto lucidare il pari, siamo usciti come lui. Dove li hai fatti? Qui a Paro. Sentiero a Paro, l'hanno fatto come lui, come se fosse appena piazzato. No, sono usciti veramente bene. Mi ha detto che comunque la mia non era tanto scandalosa, che gli amici sono tutti. Ma per un mese te ne accorgi come diventano storie, specialmente quando fa caldo. Io già li faccio fare da chi dico io, che me li devi capire, lo trasparente. Se no, l'ho fatto io, li ha fatto, li sono durati da Bacca a Sant'Ingesa. Sono rimasti lì, già li uccide e già ne è buco. Ma io poi dovrò cambiare la macchina, non mi interessa, perché mi servirò un po' di tempo, se no fare la revisione. La macchina la devo cambiare, la devo consultare perché la macchina sta con 100.000 km. Faccia così. È in rodaggio allora? È in rodaggio. Le macchine che sono per 100.000 km, mi ha parlato su questo, mi stanno andando adesso, sta cominciando adesso a andare. Si accende la spia, non mi prende l'accelerata. Poi vai a mettere la benzina, non ce n'è. Sembra che ci sia il pieno, scatta la e mi ha detto quello del fornitore che avevo già recesso in ultimo che ci ha ricevuto nel serbatoio per non mettere la benzina con la bottiglia eccetera eccetera, perché c'è il tuo e ci mette Ciao Gianni, è il nuovo modo di fare brezzi, tic tac. Ciao Nathalie, buonasera a tutti, a parte qua. Ciao Giulio, ben Nathalie. Ciao Mastro Giù. Ciao Nathalie, non ci pensare ai soldi, fregatene. Vieni domani che mi aiuti a lavorare. Vabbè, non so, io comunque parlo poco di cose, di assicurazione, stavo ascoltando il discorso assicurazione, io sono alla Cattolica, e la mia macchina è 1200 di cilindrata, e pago ogni 6 mesi 142 euro, dove lo prima ne pagavo di più, dove lo prima era intorno ai 190, così ogni 6 mesi sempre, naturalmente raddoppiato per due sempre, sia l'uno che l'altro, ovvio. E allora, siccome non avevo voluto fare lo sconto, e ho cambiato. Adesso sono alla Cattolica, lì a Serrasecca, semaforo di Serrasecca all'angolo. Ah, ottimo prezzo. E ho portato anche un amico lì, lui addirittura ha risparmiato 180 euro per la sua macchina. O Gianni, Antonello mi ha pagato 180 euro in meno di dove era prima per la sua macchina. La sua macchina sta 1.400, e tra l'altro è anche una macchina vecchia, quando è una macchina vecchia ti fanno pagare di più, perché c'è roba di 10-11 anni. È così, o già. Io risparmio 70 euro. Però sono sempre buono, è meglio a me che a loro. Con le stesse cose, ma se te l'ho assicurato, praticamente l'assicuratore è più un caso da finire. Sì, anch'io, ha le stesse condizioni. Assicurazione per il guidatore, casa attrezzi, furto incendio, danneggiamento così da banda. Per cui 142 euro ogni 6 mesi. Già, l'ho fatta 6 mesi fa, anzi no, 6 mesi, che 6 mesi? 6 mesi mi scade a marzo, mi scade la prima, la seconda rata praticamente, devo dare a marzo, perché la prima rata l'ho fatta alcuni mesi fa, capito? Che ne so, guarda, la mia assicurazione mi ha detto che mi dai 10 giorni di tempo, lo vedo comprare di un altro, se mi fa 10 giorni la mia scatola, se mi manca a in carriera, sono fatichino. No, ma non fa niente, nessuno ti dà, no, non è tanto. Io mi cambio l'assicurazione, non mi conviene questa cosa. 244 euro, ma la mia è 1.400, ecco. 2.44, capito? Adesso io pago, quando paghi tu, non mi più o meno. Sì, sì, sì, beh, certo, ma è così, deve essere così. Ma c'è una grande differenza dal 1.200 al 1.400, Gianni, di cifra. Ripeto, quella di Antonello è lo stesso, a 1.400 è cilindrata. Lui lo sa, è la macchina che ha, no? E ha risparmiato, te lo sto dicendo, 180 euro. Tant'è vero, ha portato la macchina della figlia, anche lui, la Panda nuova, quella paga un po' di più. Ma soprattutto perché magari la ragazza è ancora giovane di patente, diciamo, e io lo stesso ho portato anche l'altra macchina, noi a Coin abbiamo due assicurati, tutti e due lì, nella stessa assicurazione, per cui abbiamo risparmiato moltissimo, non poco, molto, molto, molto, oh già. Le prendi, Fra? Mi dai anche l'indirizzo, metto, c'è la secca, mi hai detto. Sì, via, aspetta che via, via con la Duccia, cioè sale la strada secca, lì abbiamo il semaforo su, proprio all'angolo c'è scritto Cattolica, entri dentro lì e c'è chi polo, puoi dire anche che ti ho mandato io, mi ha mandato Giulio Sedda, per cui un altro cliente che così potenziale potrebbe anche interessarmi, tu gli dici e vedrai che ti fa un buono sconto. Ah, via con la Duccia, signor Polo? Sì, signor Polo, sì, Polo, è quello, diciamo, quello che decide il tutto, dai. Vabbè, ci sono anche le ragazze che sono lì, ma tu parla con il Polo. E vedrai che ti fa una bella, un bello sconto, guarda. Sì, anch'io, la mia vita ero cattolica, poi mi avevano passato ad altre compagnie, dai. mi ricordo che come presa era buona la Cattolica. Eh beh sì, la Cattolica è una società abbastanza buona, per cui è affidabile, dai, è affidabilissimo. Va bene, va bene. Data lì, avanti. Eia. Ma io ho guardato nella interesse, ma per essere ormai sul corso mi dà dire una cosa senza parole. Come sarebbe a dire una cosa senza valore? Oh Natalino, non ho capito. E ne ho sentiti tanti che gli hanno sequestrato la macchina perché loro erano convinti di essere assicurati, invece il tizio si mi arriverà e gli dà via una polizia bazzurra. È successa a molta gente. Ah beh, quello, ma quello è controllabile, non ci sono problemi. Io col telefonino ho controllato, è tutto a posto, tutto tranquillo. Non ci sono problemi, c'è il bollo, tutto, la revisione, tutto quanto puoi controllare col telefonino, no? Non ci sono problemi, no, io ho già controllato, a che ti chiedo all'aria, così mi ti gocchi, vai Gianni. E io ho il telefono, c'è ancora aperto, perché devo fare la struttura, devo fare la struttura, 5 minuti che devo fare la struttura. Guarda, addirittura questo che ti sto dicendo io, basta fargli una telefonata e ti fa il preventivo, le dai tutti i dati della macchina e ti fa il preventivo così, tramite telefono stesso, per cui al limite ti richiama, non c'è sto problemi, sopra. No, no, il prezzo è veramente buono, se poi mi hai detto anche che c'hai tutte le coperture che mi hai detto, cioè guidatore assicurato, furto e incendio e antivandalici, cioè è una fesseria proprio, eh. Sì, ma è così, infatti io sono andato, prima ero qui in un'assicurazione vicino a casa, anche quella era una buona assicurazione, però lì mi faceva pagare di più, per cui non mi andava. E allora ho cambiato gestione, cioè ho cambiato assicurazione. E va bene così. No, devo dire che sono contento, 142 euro ogni 6 mesi, sono 284 l'anno, però me le due, per cui non devo dire, non mi posso lamentare, ecco. È molto importante anche che tipo di macchina c'hai, perché loro mettono i dati nel computer e poi esce in automatico la tariffa, capito? Molte macchine invece sono nella lista nera e quelle pagano molto, tipo la Smart o altre macchine. Eh beh certo, no, la mia è una C3, che ha già 8 anni, però è nuova, non ha nemmeno 35.000 km, ti puoi immaginare, nonostante che ha 8 anni di vita, non ha nemmeno 35.000 km, mentre l'altra è una Ford Fiesta, sempre 1.200, e quella invece, quella lì ha già 11 anni, ma quella ne ha già intorno ai 160.000 di km, per cui anche su quella ho risparmiato moltissimo. E c'è differenza tra le due assicurazioni? Cioè, da dove era prima a dove sono adesso? A voglia. No, la parità di cilindrata, cambiando diciamo tipologia di macchina, cambia anche il prezzo oppure sono uguali? Beh, questo non lo so. Io sono andato direttamente con la C3 e con la Ford Fiesta, sempre 1.200, però la Ford Fiesta l'abita mia figlia, deve considerare anche l'età del guidatore, no? Loro si basano anche su quel fatto lì, perché dicono che i giovani sono un pochino più avventurosi in macchina, per cui è meglio, sai, ci vanno meno, però pagano un tantino di più, ma non è tanta la differenza comunque. Infatti quello di mio figlio è ancora interessato a me, però ho messo guida libera e quindi la può guidare chiunque. Vabbè, questo a me me l'ha chiesto, dice che la guida la macchina, la guido io e basta, no? Non la guida nessun altro. Al massimo potrebbe utilizzarla qualche volta mia figlia, ma niente più, però siccome lì è la sua personale, questa la guido esclusivamente io. Loro fanno tutte queste considerazioni e in base a quello, se si vogliono acquistare il cliente devono fare gli sconti, se no la gente gira e trova senz'altro. Allora, certo, sì, sì. No, conta molto, c'è chi se la guida è esclusiva, se ti fanno un ulteriore sconto, se poi c'hai parecchi anni di la patente, poi sicuramente tu sarai in prima da tanti anni, quindi pagherai poco anche per quello, ma anche io sono in prima. Ok, io devo dire non ho mai avuto un incidente, mai, sto guidando oltre 50 anni, perché io ho la patente dal 1966 per la macchina e precedentemente avevo anche la patente della moto, che ce l'ho tuttora la patente della moto, perché è inclusa sempre nella patente della macchina. Sì, che in tutto, senza esagerare, io ho intorno ai 55 anni di guida e non ho avuto mai niente, la verità, per cui anche quello loro tengono in considerazione, perché loro guardano il computer e scoprono tutto, non è che gli puoi raccontare frottole. E ora allora c'è gente che sta sentando, ti saluto, ti ho appena ascolto. E' a capa già, è Natalino, ci sei? Ciao Gianni, avanti giù. Ok, ciao Gianni, buon ascolto allora. Sì, capito Fra, per cui non è che puoi andare a raccontargli flotto, intanto scoprono tutto, loro guardano il computer e stanno gioie e dolori di tutti. Sì, siamo schedati ormai. Appunto, perciò non puoi andare a raccontare cose non vere. Loro lo tengono in considerazione questo, ma io non devo dire, non ho mai fatto una denuncia, mai, anche perché non l'ho fatto meno sinistro. A me gli incidenti che mi sono capitati, a me che mi hanno tamponato dietro, anche un annetto fa, un anno e mezzo fa, mi hanno tamponato, mi hanno schiacciato il paraurti dietro, no? Ha pagato lui subito, direttamente dalla carrozzeria, l'avevo portato, ha pagato lui 330-350 euro, dicendo che aveva pagato quello. A me nel giro di due giorni mi hanno dato la macchina. Sì, c'è qualcuno sotto che non so cosa vuole fare, vediamo se vuole entrare, avanti, c'è qualcuno che vuole entrare. No, è già un paio di volte che bussa, ma non ci dà nessun fastidio, dai, ripeti giù. Per cui è così, cioè queste cose qui, ma che io sia andato addosso a nessuno, mai. Vabbè, ci vuole niente, sia ben chiaro, non è detto che se non è successo mai che non possa succedere, spero di no, però voglio dire, quello è importante per loro, è importante, perché dico, questo qui è un cliente affidabile che mi conviene prenderlo, invece diversamente se uno che ha avuto diversi incidenti, io non so, l'ho sentito da altre persone che non mi hanno accettato, perché ho avuto tre incidenti giovani, no, ragazzi, perché mai te lo fai lo sentitore in macchina, no, non è colpa mia, allora di chi è la colpa? Se tu hai avuto questi incidenti avrà fatto pure la denuncia, sì, ho fatto, e allora se hai fatto la denuncia significa che la colpa era tua, perché l'hai dovuto pagare. Ecco qual è il discorso. L'assicurazione vuole gente che paghi e basta, che non incassi mai. Infatti la prima cosa che dovete fare è, guarda, io sono venuto qua perché mi occorre un preventivo, vediamo un po' se voi siete più accettabili come prezzo che chiedete. Io intanto vi dico subito che guido da 50 anni e oltre e non ho mai avuto un incidente, non ho fatto mai una denuncia, potete controllare dove volete, mi chiedete anche nelle assicurazioni che sono stato, ma ne sono andato solo esclusivamente perché mi chiedono di più degli altri, se no sarei rimasto fisso sempre in un posto. A me chi mi fa pagare di meno, io apro pulita, per cui così è stato, tranquillo e pacifico, no? Mi ha dato la cifra, ha fatto va bene, pronto, facciamola, impresa e furia senza perdere tempo. Sì, no, anche io ogni anno c'è almeno due preventivi li chiedo, dai. Quindi se vedo che nessuno mi fa un pezzo migliore rimango dove sono, ma se qualcuno mi offre di meglio mi dispiace, ringrazio e vado avanti. Eh beh certo, io non è che mi fermo in un posto, adesso l'ultima prima di questa c'erano 5-6 anni fisso, finché mi aspettavo bene come cifra ci sono rimasto. Poi quando ho scoperto che in un'altra assicurazione mi faceva una cifra più bassa, allora sono andato e gli ho anche detto, guarda, quasi dire così, non ti faccio il nome, a questa cifra me lo fate, no, e allora ciao. Ma a te, arrivederci, ciao, se me lo fate me lo dite subito e continuiamo qua. Diversamente me ne sto già andando, buonasera, e me ne sono andato. Vuol dire che non pagherò altro il prezzo, sicuramente. Ogni assicurazione ha i suoi margini di sconto. Appunto, è proprio quello il discorso. Per cui, perché vi ho detto, io vivo dalla pensione, non ho soldi da buttare. Perciò, alle stesse condizioni, guarda che mi sono già fatto fare il preventivo. Perciò, senza fargli sapere qual era l'assicurazione, eccetera, questo qui è il conteggio, perché ce l'avevo scritto, questo qui è il conteggio, me lo fate voi quel pezzo, no, ma sa, bomba, guardi, le facciamo altro sconto, e me la regalo anche il desilo, ma cosa crede, che mi devo comprare la pizza, arrivederci, dai, non ho tempo da spendere con voi, e me ne sono andato. Allora, sì. Io mi ricordo tanti anni fa faceva tutti i sconti la AXA in via, alla fine di via Italia. Infatti io lo sconto che ho tuttora me lo porto diciamo dietro da quell'anno lì. Però diversamente pagavo un sacco di soldi anch'io. Secondo la circolazione che poi è bello a questo. Di solito, man mano che passano gli anni, dovrebbe diminuire, invece loro trovavano sempre scuse, e sempre 3-4 euro tutti gli anni in più, ma sopportiamolo 3-4 euro, non ne vale la pena nemmeno a muovermi da qui. Ma poi quando ho scoperto dove potevo risparmiare in maniera sostanziosa, ho fatto, basta, finito. Però sono andato, non è che me ne sono andato direttamente, no, adesso così e così, sentiamo il preventivo vostro, guardi che me ne sono fatto fare un'altra assicurazione, adesso mi fate un preventivo, ma fate un preventivo, no, molto alto, no, assolutamente no, il preventivo è questo, ma lo fate per questa cifra, visto considerato che sono qua da cliente da 5-6 anni, posso continuare a rimanere qua, però questa cifra, diversamente me ne sono andato, no, ma sta, facciamo altro piccolo sconto, no, non hai capito, ho questa cifra niente, io non sono né senegalese e tantomeno napoletano, per cui non sono venuto qua a contestare, né voi, a me non mi conviene, me ne sono andato subito, se a voi mi conviene ditemelo subito, perché io non ho tempo da perdere e non ho nessuna spiegazione da darvi, ho questa cifra o niente, no, e allora ciao, a venire, e me ne sono andato. E così si è fatto bene, no? Tutti lavoriamo, insomma, alla pagnotta, non abbiamo soldi da buttare, ma nessuno penso, vero? No, difficilmente diminuisce la circolazione, anzi loro trovano sempre scuse, ma c'è stato un aumento, vale. Poi alla fine ti fanno uno sconto e ti fanno fare male come l'anno precedente, ma no, sicuramente non di meno. Oh, di meno mai di meno, sempre qualcosina in più, 2, 3, 4, 5 euro anche così, sempre in più, per ogni semestre, che diventavano, se erano 5 euro diventavano 10 in tutto l'anno poi. Non solamente la mia, ma sono portato via anche la macchina di mia figlia da qui, non ci faccio più conto perché così ho fatto. E poi avevo anche un amico da portare qui, che gli strade adesso fanno molto, ho la circolazione anche a lui, anche della macchina della figlia, oltre che alla sua, avevo intenzione di portarlo qua. Ce l'ho portato, no, ma è completo che non lo porto. Infatti l'ho portato lì sempre. Anche lui, la macchina della figlia è la macchina sua personale, è sempre con la cattolica. Da quando ci sei? Da poco? Questa è la prima volta che paghi o è già il secondo rinnovo? No, il rinnovo lo faccio adesso a marzo, perché i primi 6 mesi scadono a marzo, per cui lo faccio a marzo il rinnovo. È così, perciò chi è convenuto, insomma, al prossimo anno, prima di rinnovare di nuovo, faccio fare un altro preventivo da qualche altro. Se c'è qualcuno che mi fa pagare ancora di meno, a meno che non si tratti dei soldi di una pizza, allora non ne vale la pena. Però, voglio dire, per quale motivo ti devo regalare dei soldi a te, quando le condizioni me le garantisci anche con l'altra assicurazione? E io ragiono in questo modo. No, per vedere se si mantengono il prezzo basso, oppure mai dopo un anno subito provano a aumentarlo, veramente. Io lo cambio subito. La cosa di crisi, sto lì a no, ma gli ho detto, ma non è che poi, ma gli ho anche detto questo, no, sia tantino, e no. Al limite può rimanere così, è possibile che abbassi anche, non è detto. Ecco, perché se poi va aumentate, già lo sapete che io vado via subito, non sto via per andare lungo, però no, non si preoccupi, io adesso va bene così, poi, quando sarà a settembre mi sembra che mi scade l'anno, si vedrà. Il discorso è sempre quello. Prima della gestione dico, come faccio la preventiva, quanto devo pagare per il rinnovo di questa polizza? Se vedo che la cifra è conveniente ci rimango, diversamente cambio aria o fra. Poi ormai non ci vuole più la disdetta, quindi meno male, la cosa è buona l'hanno fatta. Registrato il break. Sì, in effetti è così, non ci vuole disdetta e per cui è già un vantaggio anche per l'automobilista. Avanti il break. Chi sei? Non ho capito, sei il basso di radio, per cui se puoi parlare un pochino più forte. Adesso mi sentite? Se ti sto rispondendo vuol dire che ci sentiamo, no? Chi sei? Come mi senti? Luca, ti sento con le orecchie, ti sento. Come non ti sento? Appunto te lo sto dicendo. Se ti sto rispondendo vuol dire che ti sento. Luca, io lo fai un ruolo occhio. E allora buttalo via se va male. Già ti sento. C'è Franco e c'è anche Natalino, che adesso te lo mando avanti. Dai Natalino, scusa tu un po' focarti con Franco. Ciao, sento anch'io, però sei un pochettino basso. Va. Marco la guerra, ciao Franco, vai. Ciao Lu, ma non sei a casa tua? Oh Luca, ma dove sei? Nel quartiere americano, sì, perché forse non è antenna, è un antennino probabilmente. Luca. Guarda che deve essere un Goldat 4008 come quello che sto usando io, che è una cattura di via Miffi. Sì, confermo, Goldat 4008. Sì, su qui il fiume, il baracchino. C'è il microfono male. Sì, c'ho il microfono normale. Della Midland, quelli che mettevano nell'ala 48 modificato Colt, capito? Però è quello il baracchino, dai. Ce l'ho perché è omologato e tu non ne posso usare altri, se no qua distruggo e non va bene. Dopo questo qua, il microfono amplificato, la batteria da 1,5, il microfono già alla fine. Però voi, l'antenna acustica in questo momento lo sento alternata. No, io non mi sento bene. Prova per l'esercizio è strano. Io mi sento bene. Allora, io lo sento, non benissimo, cioè segnale 9+5, non è il suo segnale solito, è la radio, vabbè, non è neanche quella, la solita radio, è molto, molto più bassa e un po' più cupa. Sì, ma non sono a casa, sono qua a 98, anche la dentro casa, una magnifica, anzi, l'ascolto benissimo anche oggi, anche a presto. No, vedete, anche il segnale non è scarso, io il segnale tenevo bene anche lì. Ho capito, il massimo è 4 o 5, cos'è? 4. Quindi è buono, eh. Sì, no, però, no, buono, riprendi giù. Ok Luca, tu mi stai levando Santiago sì qua, ma se sei dentro casa, infatti avvocato ti ho chiesto, sei con un antennino, ma me l'hai confermato, sei con una magnetica, dunque sei con l'antennino dentro casa, ma già va bene, Santiago sì, la radio non è molto alta, però già ti sento abbastanza bene. Avanti Luca. A te tu non la telefono, scusa. Ok Luca, d'accordo, dai. Va bene così. Quando si è all'interno della casa con un antennino non è che si possa pretendere più di tanto. Infatti ormai l'avevo capito che era. Infatti perché poco altro detto, nel quartiere americano sì, riferendomi alla canzone catanese, no? Avanti Natali. No, io te l'ho detto, che l'ho sentito bene. Antenna magnetica del troccato per voi stessi, però arriva bene qua. Sì, beh certo, arriva già arriva. E in un primo momento non avevo nemmeno capito che era Luca, per cui non conoscendo quel microfono lì, quella modulazione, perché è totalmente differente da come è realmente lui quando è a casa, eh. È tutto diverso. Vai fra. No, neanche io all'inizio l'avevo riconosciuto, poi l'hai detto tu e ci ho fatto caso e allora sì, eh. Beh certo, sì, perché al primo impatto non l'avevo capito bene, quando lui ha fatto il break non avevo capito bene, mi era arrivato troppo basso di radio, per cui non potevo. Poi quando ha parlato per la seconda volta allora ho capito che era lui. Dunque lo. Diciamo che ho svelato la sua identità. Vai Natali. Vabbè, gente mala. Fabrizio, cari, dammi. Già era un giorno senza sedere. Ciao Fabrizio, Franco, Natalino e Luca di Tambai, Luca del Monte. Vai Fabrizio. Sì, vabbè, buona settimana a tutti, vi ho sentito. Ciao Giulio, poi Franco, Natalino e Luca del Monte. Saluzioni e ben sentiti. Avanti Natalino. Ciao Fabri, ben entrato, ben sentito, dai. Avanti Franco. Ciao Fabrizio, ben sentito, mi dai anche la casa alla moglie, grazie, e riprendi? Casa, io sto muovendo da Pavesi. Pavesi? Ehi, da Pavesi. Non parli benissimo. Ma sarà la zona della Peronce, dai, sulla Putibuti, la zona lì, non fra, dai, riprendi. Va bene che sei nato, ma... Ah, ok, dai, ma che ti vedi bene? Sei da questa zona? Sono a Monte Basso. Siamo vicini, benissimo. Avanti Luca del Monte. Luca del Monte tra il fornello. Avanti Giulio. Ok Fabri, aspetta un sacco di tempo, ma io come minimo un anno senza sentirti, già era un giorno, come mai tutta questa assenza dalla frequenza Fabri? Posso chiedertelo? Ah, guarda che le radio le accendo ogni giorno, capisco, magari guarda, entro ogni tanto così, magari la sono stato l'altro giorno sui 23, qualche battuta di GMR, però sono tutto nascosto, capisco, non, tranquillo, già non le abbandono le radio, me le sposto dentro il baule. no, ancora è troppo presto, lascia perdere quelle cose. No, comunque mi fa piacere di ascoltarti, dai. Sono veramente contento di avervi ascoltato. Avanti, Natali. Sì, io l'ho ascoltato qualche giorno fa. L'ho ascoltato a Patrizio, che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Vabbè, dai, e fino a campà. Avanti, Franco. No, lo stavo ascoltando, già alla modulazione. Diciamo la voce di un mio collega di lavoro, ma è il tuo vero nome di battesimo quello Fabrizio? Allora io mica non è facile intrallarsi, io dico le cose come Fabrizio, capisco, ok, ma questo tuo collega di lavoro è ricco, se è ricco allora non posso essere io. Beh, non è povero, diciamo, dai. Allora se non è povero allora non sono io. Allora, diciamo che sei ricco dentro. Allora sono ricco nell'anima, capisco? Sono ricco nello spirito, ma non basta. Quello lì c'è già Adama. Ma è così giù, non basta. Quello è vero e quello non riconosco anch'io. Oh, Fabrizio già è sempre stato abbastanza di un umore buono. E lui è sempre in vena di scherzi, eccetera. No, quello sì. Lo riconosco, Fabrizio. Okay. Natalia, ma io non accorgo, non ho detto che è venuto nel confronto che ha sequestrato tutto, vero? Come? Non ho detto, dice che è venuto nel confronto a casa tua e che ha sequestrato tutto, perché dice che c'è una denuncia che non fanno, che hanno fatto una denuncia di 10 persone, vero? E allora, come fa? Franco e Giulio, che gli hanno fatto la denuncia, perché lì ha fatto anche la sua, perché ci sono 5 donne lì in quella denuncia, e lo stanno parlando a Natalino, cazzo, gli spegneva queste donne, gli si spegneva il vibratore, non sapevi questo o giù? È bella quella, no, guarda, Natalino è un po' di malumore perché gli hanno ammazzato il gatto, secondo quello che mi ha detto lui, poi bisogna vedere se effettivamente l'hanno ammazzato o se il gatto ha mangiato qualche cosa che poi purtroppo è morto. Ah, Natalino, raccontaglielo tu questa storia. Già, è vero, già, si spegneva il vibratore e per quello mi hanno denunciato. Queste grandi, vabbè, non lo dico se non è troppo colorito. Allora, poi dice, cazzo, quando parlava lo sentiva quello del tabacchino, quello che lì, dove dice a lui, lo sentiva nella macchinetta dell'otto. Io ho sentito che uno ha aperto anche il latte. E allora, dava le schedine, dava i numeri quella macchinetta quando schiacciavo la forzante io, e metteva un numero per un altro. Allora, cazzo, faceva così, e poi quando faceva le ricariche, cazzo, così, sbagliava i numeri. E allora, sbagliava tutto, e per quello mi hanno denunciato. Poi quelle 5 donne se gli spegneva veramente il vibratore, capito? Cazzo, il tuo fratello, perché le donne ce l'hanno con lui, perché cazzo va a giù, e gli si spegneva. Ma non è che invece accelerava e vibrava di più, no? No, magari, se fosse così non gli avrebbero fatto la denuncia, anzi, gli avrebbero detto di mettere un'antenna più grande. È un lineare più grosso. E allora? È perché se li fermava proprio. Vogliono fare togliere l'antenna. Hanno messo le firme, dice che hanno mandato una lettera, manda. Anche non si rimuove le luci. E sicuramente, guarda, 95%, poi fai guardare quelle antenne, le centraline, tutti i cosi saranno tutte antenne pessime, con i cavi tutti butti male, non è così o giù? Sicuramente sì, o Fabri, sicuramente così, infatti però c'è da considerare anche questo, che oltre ad avere le antenne così come stai dicendo, su marce, cavi eccetera eccetera, a me mi sembra che hanno anche la mente marcia, perché Natalino gentilmente si è offerto, addirittura comprando l'antenna nuova lui, di fargli lavoro tutto da capo, l'antenna nuova. Beh, non hanno voluto, cose dell'altro mondo, perché queste gente che tra l'altro non pensa che anche gli altri hanno dei diritti, e allora sono in guerra per quel motivo lì, Fabrizio. È una cosa che è successa a me in campagna, ma guarda, sarà da questa casa, da me sarà in basso, sarà a 120, forse anche di più. Io ho visto dalla televisione, cazzo, guarda, aveva una televisione, cazzo, dove 600, che non c'erano ancora televisione, perché ci butta una cosa pazzesca. Ti regalo io una televisione da 50 pollici, quella è cazzo, al plasma, e vedrai, no, io cazzo, qui, cazzo, mi dico, così, guarda, abbiamo 90 anni, cazzo, se vuoi, l'ultima sera non fai come cazzo ti piace, perché se viene nel composto, ti arresta perché c'è ancora questa televisione. Magari non pagavamo la data TV, perché ce ne sono tante anche di quelli, Fabrizio, alle volte la mente di certe persone è proprio da ridere, ma comunque cosa vuoi fare? Non tutti possono essere intelligenti nella vita, ma almeno un minimo di intelligenza dovrebbe possedere chiunque. Vero fra? Ma è bello, Giulio, che io ho l'antenna TV mia sul palo di quello che disturbo. Figurati un po', a me non riporto manco una striscia né nulla. E se ti fa di tenda, vai, la televisione è accesa, ma non riporto nulla, nessun canale. Ho guardato Mediaset, Rai 1, Rai 2, Rai 3, nulla, non riporto niente. A questi li disturbo, vuol dire che c'è qualcosa che non va nell'antenna, no? Quindi quando vengono e a me mi rilasciano il verbale tutto regolare, il televisore non ne vedono più, anche allora attacco Romagna e pongo 50 watt. Allora ve lo posso avere. E non ne vedi più televisione. dimenticavo pure i filtri anti-CVI, perché qua c'ho due filtri anti-CVI in fabbrica e l'ho omologato. E loro, cazzo, mi lasciano il coso tutto regolare, vedrai cosa riporti. Un tecnico mai frutta sanno di chiamare. Ma cosa allora di più bambino? Pongo tutto a manetta, 50 watt, metto turbo, contro turbo, tutto visto che fai. Il mondo è su balla prima. Ma sai cos'è, Natalie? Le più delle volte sono delle ripicche. Cos'è successo a me? Sì, tu a 96, no, guarda, non è così niente. Ma sai, cazzo, ma tu hai detto cosa vuoi? Eliminare il disturbo o mi vuoi rompere i coglioni? Dimmelo subito. Io sono qua. Ti do una televisione che costa cazzo 600 euro, cioè, vabbè, io la usavo, ne avevo due, ti do questa qua, è bellissima, non l'ho mai vista, è vita tua, ti faccio anche la, ti metto a posto la tua televisione, questa cazzo a bocca mare, che sei in terra, ti voglio fare una foto per non disturbare, e dillo subito, se no fai quello che vuoi, che quando viene il tuo posto a vedere questa cagata, ti detto non disturbo la mia che ce l'ho a 5 metri e disturbo la tua a 100 metri, spiegalo. Infatti, quando io voglio che vengano, ci hanno omologato. Ma non capo il rosso a basta! Non fai qua! Mi gioco di zeno, di veni, di poco poco, e mi dagano il coso tutto regolare perché ti lasciano il verbale, no? Come mi metto un tutto regolare a fase, mi scendi dieti non vedendo più la televisione perché non ne vedono più. A parte che si devono pagare 600 euro per muoversi da Cagliari quelli là. E se li trovano con le antenne messe male anche la multa gli metto. E magari saranno anche l'amplificatore. Tu pensa, poi io ho risolto questo problema, quando è venuto il figlio della madre, ecco, ti ho detto, guarda, io è già giovane, già ha la ragione, se fa così, io lo voglio sistemare tutto, lui lo mette una lira, è una ripicca, se poi è una ripicca, quando vengono a controllare, vengono con la cavetta che c'ha, lui si paga tutto, anche le spese per quella gente lì, poi vengono catturati, e loro erano al mare, devono far venire, l'abbiamo fatto prima gli stati, ho fatto tutta l'antenna radio, tutto il capo marcio, tutto tagliato, ma io abbiamo messo il cazzo perfetto, ma anche quando attaccavo i 3 kg va a venire lineare, nulla, zero, allora era una ripicca, ma con le ripicche non vai a nessuna parte. E infatti una ripicca, uno con me che poi c'ha boh, dice ma giù l'esposto pronto, ci vogliono un consegno in questura e lo denuncio tutto, è finita. C'è l'esposto pronto per uno di questi. Se viene qua poco a poco alzare le voci, domani sono in questura. E sto cazzo giù. Perché non me ne frega nulla, glielo faccio, è pronto, già pronto a consegnarmi l'esposto. Oh, perché sono già andato in questura, mi hanno dato il modulo da compilare, l'ho compilato, pronto a... Se lui viene poco qui, alza le luci, è fuggito, a chi gli do subito le cose. Me lo tolgo dalle palle una volta per tutti. Chi arrivavo, cazzo, sono andato e la giusto di raggiungere l'antenna a spese mie, per non disturbarla, a spese mie, che io ho l'amplificatore, non li faccio manco una striscia a mio. Arrivavo di dito che se poi a volte, io adesso gli facevo l'antenna io, all'altro a quello che disturbo che ho l'antenna mia sulla sua, gli ho detto di farmi salire a controllare che gli mettevo a posto l'impianto, nulla, non è voluto, e allora si tagliano i disturbi, cosa cazzo mi nascosta? Penso di essermi comportato bene. Eia, ma molte volte l'ignoranza è che cerca le persone, e soprattutto le ripicche, perché poi non sanno, quando vengono quelli là, oltre che ti paghi la spesa, magari poi trovano anche il cazzo d'antenne personale, e magari trovano anche l'amplificatore che non possono usare per legge l'amplificatore. Cazzo, lui è incredibile, ma purtroppo è così. E allora andare per legge e poi perdono quasi sempre. Allora ti fa. Ehi, quando manca il dialogo? Inutile, batte contro un muro di gomma e rimbalzi, la gente è ottusa, non vanno da nessuna parte da qui. Ho Fabri, anche se sei poi stavolta ti denuncio, ti chiamo il carabinieri, chiama chi ti piace, io sono in regola, non hai capito che io sono in regola, chiama chi ti piace. I nocchi, grazie a Dio, non ho giunto nessuno. E se vengono le sopposte, li faccio entrare. Se io non disturbo il furgone, perché loro cazzo, puntano l'antenna al ponte ripetitore. Se io non disturbo il furgone, come sono cazzi loro. Allora, poi se tu no, se tu puoi sei che sono delle televisioni che dice a te che non disturbi, e altri sì, il problema è tuo, è tu di loro, magari avevano qualche apparecchio starato, qualche antenna si è messa male, il cavo distrutto, qualche centralina tutta cazzo fuori strada, sta butta male, mille cose, allora più giù. Ok, vabbè, magari hanno anche, l'hanno messa loro con l'antenna, con le proprie mani, senza sapere certe cose interessanti, importanti da non, che devono fare, però quello che dà fastidio soprattutto, ma ti voglio comprare l'antenna nuova, ti compro il cavo nuovo, vengo, ti faccio il lavoro, non ti chiedo niente e sistemiamo la situazione, stai bene tu, sto bene io e tu non mi permetti di venire a farti il lavoro. Allora sarebbe più donno, tanto sarebbe più da recuperare un manicomio come minimo, Fabi. Quando una persona si offre in questa maniera, chiedendo che non ti faccia spendere un centesimo e non sei contento, anzi ti voglio migliorare la situazione e tu non sei contento, ma allora sarebbe più tutt'ora non avvero, mi fai Fabri. Allora, la replica, se lo stai dicendo io non lo so questo problema. Sì, sì, gli ho fatto a tutti, perché lui ha detto che tutto è venuto, vero? Non mi stupa niente, guarda la televisione. No, gli ho fatto questo, vedi questa televisione che c'ha lì, questa vecchia, cosa la fa? Mi manda in via Roma. Sì, io sono in via Roma, io sono a Filippicino. E via Roma, dopo lì ha passato il tribunale, tu a Filippicino, c'è un museo. Suona e l'apro. Figurati. Fabri, e c'è un'altra cosa che ti volevo dire. A quello gli volevo piazzare l'antenna, la città, no, sicuramente l'inquilino, il padrone di casa non vuole. Certo non vuole. Subito la riguarda sacchi, ti disfaggiare. E sono andato da un amico io, che disturbava tutto il palazzo, perché era centralizzata l'antenna. Se tu mi dici, come era che si impianta, addirittura l'antenna l'ho dovuta cambiare. Io ho dovuto sistemare l'amplificatore sopra un palo di legno che era in terra, in chi mi leva, tutto pratico, da giù poi sono ispezioni nuovi all'antenna, cioè già fatto l'antenna nuova. Beh, quello che è put, non solo che è quello omologato, quello che è put a maletta non si fa. Eia, e poi questi che fanno i tuoi portetti, c'è gente incompetente a riguardo. Poi per gli impianti, e ti danno le mani nei capelli. È incredibile, ragazzi, non mai li studi, quanto un impianto del genere. Allora ti fa. E Franco non riprende, riprende. Ah, io tu mi ha detto che era tecnico, mi ha detto. Il tipo che disturbo dice che è tecnico, e allora cosa tira? Cosa vuoi da me? Fammi e mezzo. No, questo è capito, poi era un tecnico al circolo, capito, sollevamento gomito, avanti Giulio. Probabilmente questo è così, tecnico al circolo, veramente, con una tazza. No, ma guarda, alle volte si sentono certi discorsi da certe persone, ma la cosa più grave, Fabi, è che proprio certe persone, di una certa età, che dovrebbero avere un minimo di buon senso, ma se questo si è messo questa antenna, probabilmente perché è autorizzato a mettere l'antenna, no? Allora, a questo punto c'è questo disturbo, vediamo un po', mi sta offrendo la sua volontà di pagare tutto e di farmi il lavoro e io non accetto, ma allora che razza di elemento sei, non si capisce proprio, come lo vuoi definire tu una persona del genere, io lo chiamo tonto, non turlone. Vai Fabri. Allora, poi tu pensa, ci sono certi punti in campagna, ci sono quei punti ripetitori della telefonia, forse anche quelli, appunto, da un mio amico lì dopo la fattoria disturbata di un forte ripetitore che c'è di fronte alla stanza della dottoressa commerciale. Poi gli devo dire su e ti di cazzo, io ma io guardando, ma stavo ancora con Dalacchino, guardavo tutte le case, le ville, antenne in luogo, lui dice allora sicuramente là, ma c'è un altro, insomma, il corso è stato con della sito dove è stato con la telecom, eh? E con la documentazione c'era un ponte lì di fronte al centro commerciale, c'era una cella che stava andando in armonica. Figurati, beh certo, quando c'è questa interferenza qua sicuramente un problema c'è, non ci sono dubbi, ma poi bisogna capire, questa antenna chissà magari ce l'aveva 30 anni sul tetto, sarà marcia, sarà tutta quanta piena di ursido, di, o, il capo sarà tutto quanto ossidato ugualmente. E fai anche un po' di manutenzione, perché niente c'è di eterno, e anche le antenne hanno bisogno. Dunque, se io ti sto offrendo la mia prestazione, spendendo anche di tasca, e tu non me la accetti, ma allora sei proprio non si può discutere, ecco, tutto lì. Vediamo un po' se Franco ci sei, sì? Sì, capo, no, stavo parlando con la 50, scusate la pausa. Allora, molti partono da quel presupposto che prima dell'antenna, che tu vedessi l'antenna, io vedevo tutto bene. Da quando c'è l'antenna non vedo niente, quindi loro si puntano su quella turia lì. E piccola cosa, non ti scarti, ma tu sei la mamma, che magari ha sempre quella casa tua, e ci sono il campanello che sta a 16 dalla televisione, non capisco che ci siamo riusciti a casa. Ma mi sei abbastanza di due campioni? Io posso anche disturbare, non lo metto in discussione, però non mi racconti qualcosa. Ho visto che hanno aggiunto altre due antenne lì dove hanno messo, dove c'è la mia antenna TV. Magari sono troppo vicine, perché ho visto che sono attaccate, e mi sa che è per quello che sono disturbato. Ma ti hanno detto, e poi l'hanno detto a mia moglie, a me non mi hanno detto nulla, l'hanno detto a mia moglie, perché io ero ammalato da prima di Natale, e hanno trovato a mia moglie fuori, perché abbiamo chiamato quelli delle poste, gli ho mandato la lettera, stavano una rivista, hanno mandato la lettera, tutti di per tanto, 600 euro, e da poi si la qui fai voi, si pone la voce, amici, la qui fai te. Come vedono le antenne messe così, dico, fa una cosa, chiamate il tecnico e mettete le antenne a posto. Allora, poi ci metto l'arroganza, capito? Ci metto l'arroganza. C'è un problema, solo che in casa. Benissimo, c'è questo problema, io trovo il risolvere, infatti non metto una linea, fammi il fai dove no, cosa ti budi, bla. Però alla fine, infatti, sono quella cosa, tu pagano tutto insieme. Fabrizio, ti sei abbassato, di due Santiago, come mai? Ma anche adesso? Sì, anche adesso, sì. Ti sei abbassato di due Santiago, da prima adesso. Aspetta la finita. Ok, controlla Fabrizio. Sì, beh certo, ma cosa vuoi Natalia? In questo momento cosa vuoi fare? Tu per quello non devi prendere mai la calma, lasciali agire, sono loro che devono agire e risolvere questo problema. Per cui se si chiamano qualcuno, dai, di chiamare cosa di una puccia a te. Venite, controllate, io ho questo, non sto usando niente di illecito, l'antenna è quella che è, per cui se l'apparecchio è quello che è, il microfono è quello che è, meglio di così, non posso. La cassa l'ho pagata, te tutto l'altro sono che usi, per cui, e allora vedrai, continui pure, ti dicono, continui signor Medici, arrivederci, ci sentiamo in occasioni migliori. Vai Fra. Guarda adesso com'è. Adesso va bene Fabrizio. No, sbaglia tu, stai solo, faccio una cosettina qua, deve essere che ho toccato qualche cosa, ok. Quindi adesso com'è? Va bene così Fabrizio, adesso sei tornato come prima, va benissimo. Si conferma anche qua, è ritornato come prima. No, sai cosa, ho toccato un tantettino, si è abbassata la potenza, ma io stavo facendo una cosettina, capito? Infatti non si è accordato anche perché avevo picchi negativi e non l'ha accordata, là, non, siccome non è, questa antenna non è adatta per la 27 e quindi devo accordarla. Là. Non faccia dei picchi positivi fortissimi, scusate che mi stanno chiamando. Ok Giulio, adesso che mi sono ricordato, voglio chiederti una cosa, visto che ci sei il mestiere, ok? Dimmi, va bene, sono qua, non ci sono problemi. Allora, un bravo falegname, non bravo, un onesto falegname, quanto ti può prendere per, come noi nelle scale, abbiamo delle finestrelle 50x50, dal tetto il legno sarà da 10 forse neanche, ma siccome dopo 40 anni all'esterno è uscita la vernice e il sole ha colpo quel legno, per levigarle una di queste finestre, levigarle per iniziare un onesto falegname, quanto potrebbe prendere? Ma guarda, per intanto bisogna trovare la persona che lo faccia, perché non tutti si mettono a fare questo genere di lavori. Però ci sono delle persone, se vuoi ti do un nome, si chiama Tore Spina, si chiama, guarda, sull'aereo con telefonico, vedrò tu, perché lui fa questi lavori ed è un lavoro che fa lui da anni, perciò è uno che si impegna anche in questi lavori, non c'è problema, ma è una miseria comunque, non è una grande spesa, per vedere e per dire quanto ci vuole bisogna che uno veda il lavoro, dove deve difficoltà, dove deve attaccarsi, dove deve appendersi, tutte queste cose, non si può fare un prezzo così, capito? Ecco, quello che mi caso di chiedere a te, non mi caso la prendere la forca, no? Sulle piezze da pavimento sono grassano, neanche 1,50 m, quindi devi staccare dalle cerniere e basta, capito? Cioè io stacco le finestre e le porto a Faregliano e non me le fa. Oh, così è proprio una miseria proprio. E allora il telaio non lo vuoi pulire, non lo vuoi verniciare, solo l'anta, ci porti l'anta e ciccia. Io ti dicevo, no, poi anche l'anta lo so, però l'anta l'altezza della quella che possibile, 3,50 m dal pavimento delle scale. Capito, è una cazzata, non è una cosa pericolosa. Sì, ho capito, ma quando pulisci l'anta, anche il telaio può fare della finestra e quello non lo vuoi pulire. È questo che ti stavo chiedendo. Eia, io questa estate a casa mia, dopo 40 anni, me lo faccio io. Piano piano me lo portate in campagna, ho detto che ho fatto anche qua, sul grado, ma me lo portate in campagna, sono più gratuito, non sono applicato nessuno, e me lo fate io, capito? Da principiante, tutte le ho levigate, me le ho verniciate, di lusso, a frutto, poi le ho fatte vedere a uno che sono insieme, mi ha detto dai un valore, gli ho fatto un assalto, sono stato un principiante, sono fatto discretamente bene. Capito, quindi anche giustamente sto dicendo, fai anche la cosa, ma io sto dicendo per sapere più o meno cosa può fare, perché io la mia me la farò io, capito? E io volevo fare una cosa tecnica, più o meno cosa potrebbe fare un falegname a fare una finestra. Ho capito, sì, diciamo che grosso modo un falegname che con la bottega eccetera peso intorno alle 150 euro, ma se lo fa a regola d'arte veramente, perché se la scrosta tutta completamente, se la porta a zero, se la porta con la attrezzatura che ha, la pistola termica oppure anche con un ferro a filo si può fare, e riesce a togliere completamente tutta la vernice vecchia che c'è sotto, perché è inutile verniciare sopra la vecchia, anche se sembra che sia attaccata bene, però è meglio levigare a fondo fino a portare al legno vivo, in modo da poter dare prima di tutto una mano di impregnante antimuffa sotto e poi tingerla al colore o al trasparente o al colore che vuoi tu, non ci sono problemi, capito? Intorno alle 150 euro. Guarda, io ho capito, ma quello io ho fatto io, che ho fatto io a casa mia, le mie, le ho tutte levigate a legno zero, a legno vivo, ma di Dio, una volta che fai bene, cazzo mica ci ho cominciato sopra, tutti li ho scostati a legno vivo e poi le ho tinte, capito? Quindi cioè 150 euro, ma là me li voglio io, cioè quindi allora se devi fare una finestra normale, come ho fatto io delle camere da letto, per una finestra così grande, ne è forzato di quelle, quindi un falegname ti prende 600 euro per fare una finestra normale, mamma così. Posso? Prego. Io devo andare via perché è venuta gente, purtroppo devo fare due recitati, ti saluto e ci sentiamo alle prossime. Ok, d'accordo Natali, dai, alle prossime, a domani allora, grazie della chiacchieratina, a domani. Sì, Fabio, deve considerare che il falegname deve comprare l'impregnante, deve comprare la vernice, deve comprare la carta vetrata, deve consumare la corrente elettrica con la per la pistola termica, oppure per l'assilo. Con l'assilo lo stesso, la togli completamente la tinta, è una spatola. Deve considerare quello, cioè uno che ha una bottega ha delle spese, va bene. Se te lo fai tu chiaramente risparmi, ma è normale. Però non è che tu puoi pretendere che uno ti possa fare una cosa del genere, perché tu quando devi considerare questo, oggi come oggi, una finestra, facendole in serie, se supponiamo il caso, tu metti in lavorazione 10 finestre, tanto per fare per dire un numero, no? Con la finestra la fai in 4 ore, 5 ore, di che vedi bene, dice ma io anziché pulirla allora la faccio nuova e guadagno di più. Mi sono spiegato qual è il concetto, Fabrizio? Sì, infatti quindi io in serrata ho fatto tutto quello di casa, il soggiorno, c'è quella grande, c'è la vetrata, quella più lunga, quelle cucine, scattano più di 10 finestre, a questi prezzi per fare una casata di finestra 50 per 50, 150 euro, è andato risparmiato, 1.500 euro risparmiato. Ah, 50 per... io ho capito 150, io ho capito 150, ho capito, non 50, vabbè, no, allora no, è così piccola, no, e allora molto di meno, dai, circa nemmeno la metà allora, e io avevo capito 150 di misura la finestra, capito? 50 per 50, un quadrato, 50 per 50, sono delle finestrelle lì che ci vogliamo 6, 2 per ogni piano, capito? Sono 3 piani, sono quelle che sono detto nella somma delle scale, sono piccoline, sono 50 per 50. No, allora no, io quando ti piace 50 euro ti sei truppo, però va bene, avevo capito una finestra da 150. Avevo capito così, considerando poi le due ante, no, di una finestra, perché di solito non avevo capito che era un lucernario, era praticamente. È una finestra tra un'anta, capito? Uno due cerniere e altre chiude, capito? Perché sono state modificate tanti anni fa, perché prima aprivano dall'alto, adesso è stato normale tipo un portello, va? Ho capito, io voglio 50 di euro allora, va bene. Di me non te ne fanno, per me non te ne fanno. Se tu consideri che se ti si buca lo scaldabagno, sono, anche se in garanzia vengono a vederlo e ne vogliono 35-40 euro senza far nulla, solo per venire a vederlo. Perché vedi bene, papi, una cinquantina di euro, se un fottellino così, no? Ma di meno non penso che ti possano chiedere. Ma più o meno la sera per un'idea, capito? Perché sanno che chiederanno, sai come sono questi operai di oggi, vogliono 50 euro per mettersi una vista. Era più o meno per avere un'idea, io un'idea me l'ho fatta, ma me l'ho fatta per il lavoro mio. Capito, però quando hai a che fare con gli altri proprietari devi avere come un'idea, no? Non è che non ti chiedo, voglio 200 la finestra, 200 la finestra me la vuoi io, la mia me la faccio io, poi le altre ti arrangiate, capito? Perché 200 euro non ti darò mai per una finestra. Non di certo, no, io avevo capito la finestra di 150 di altezza, capito? 1,50 m di altezza, poi io ho fatto questo ragionamento, 150 sono due ante, la finestra più il telaio. No. Ecco, io intendevo quello, cioè una finestra a due ante, non un finestrino, tu mi stai parlando di un finestrino, proprio, un piccolo lucernario, dai, o quello che vuoi chiamare, non capito? E allora no, è tutta una musica, Fabio, capita, siamo, ci siamo vicini da qui in aria senza aver capito bene io quello che intendevi, capito? Infatti, ho detto 50 per 50, poi il legno sarà la 7, la cornice del vetro, dove c'è il vetro, la finestra, sarà, non è neanche la 10, sarà la 7, 7, 8, non di più. Sì, di solito è 7 per 4 e mezzo, quando è grosso di spessore può essere 5 e mezzo, no? Anzi per l'esattezza 54 mm per l'esattezza. Ah, è così, sì, no, non è niente, capita. Capito, completamente in un'altra maniera avevo capito. Io quando tu hai detto la misura avevo capito 150, non 50, 150 avevo capito. Poi io ho fatto il ragionamento, 150 sono due ante più un telaio e siamo lì. Allora era giustificato il prezzo che avevo detto. Allora, io quest'estate ho fatto tutta la manutenzione dopo diversi anni, ho spinto tutta la casa, sono 140 metri quadri, capito? Mi ho ripreciato le ringhiere, sono fatti quel faccio tutti io, no? Non chiamo mai nessuno. Ma però per voi, io per curiosità sempre chiedo sempre se preventivo, per curiosità per vedere quanto sono ladri le persone, ma cioè preventivi spaventosi, incredibile, gente che ti metteva 400 di tinta, quello che ti diceva per le ringhiere che ci volevano 450 di tinta e poi io ne spese 25 per fare due ringhiere, sai, cose incredibili, incredibile, che chiamare i ladri è una cosa, fagli un complimento. Eh beh, certo, a quelle condizioni uno non se lo fa da sé, va bene, e gli auguri, ci mancherebbe altro, certo. E poi quando uno se lo sa fare e se lo può fare, è meglio se se lo faccia da sé, risparmia un sacco di soldi, va? Scherzando siamo, sì, ma è così. Interessante che uno lo sappia fare e che lo faccia anche un bel lavoro, perché se puoi per fare un pasticcio, è chiaro che devi chiamare uno che lo sa fare. Oh, che pure alla volta, che secondo chi chiami, è lui che ti fa il pasticcio, o Fabrizio. Infatti io ho mio cugino che è un giovane, che mi ha detto, lui faceva i lavori che fa, ha detto, prende il fatto, che ci piace, è fatto benissimo, e piccola cosa, se va a tenere in cantiere, gente che una vita faceva un muratore, fa tante cagate. E di quello puoi parlare, per carità, tu lo sai, io ho una vita a contatto sempre con i muratori, dal momento che ho fatto il lavoro, il mestiere che ho fatto, adesso vabbè non sto lavorando, ma sono in pensione già da anni, e sì che ne avrò pure visto di porcherie fatte da muratori, no? Mamma mia, ma sono arrivati addirittura un giorno, avevo fatto delle persiane, avevo fatto, no? E dunque gli ho messo attorno alla persiana lo stesso olio giusto, in modo che poi non, quando loro intonacavano non toccasse l'intonaco attaccato tutta la persiana, se no sarebbe chiuso a ferri, si dice così, no, tra l'intonaco e il legno. E gli ho messo lo stesso olio di 4 mm tutto attorno. Tu immaginati, quando la persiana è chiusa, tutto attorno ci deve essere lo stesso olio di 4 mm, cosa che io gli avevo messo con un chiodino sottile di cui mette a filo, una fetta di compensato che è di 4 mm e larga lo spessore della persiana tutto attorno, in modo che lui quando murava gli avevo detto questi non li togli, questi li togli dopo che hai già finito tutto il muro, tutto intonacato, che l'hai piantato e tutto intonacato tutto attorno, in modo che quando apre la persiana si è mancata la corrente, sono rientrato Cazzo, gli ho mancato la cosa veramente. Comunque, anch'io una volta ho chiesto uno sportellino per un contatore. E mi ha sparato il prezzo di una finestra più o meno normale. E lui mi ha detto, ma per me non cambia niente, fare una finestra grande o fare una piccolina ci metto sempre quelle ore, così mi era risposto. C'è solo la differenza un po' per il materiale, in più o in meno e basta, dice. Mi ha detto una cazzata, capito? Perché sono cazzate, se lui dice a me non è così. Una cosa è fare 2 metri quadri di legno, una cosa è fare le divane 5 metri quadri, non è la maxigosa. La maxigosa è femmina e femmina. Lui me la mette lì sul tempo che ci vuole, fare una grande, la piccola, il tempo è lo stesso. Solo la differenza è il materiale, in più o in meno. Ma ha detto una cazzata, ha detto due cazzate. Cioè scusa, se una finestra, come che tu fai un pavimento di 4 metri quadri, non è fare uno di 20, non è uguale il tempo, cazzo di lavoro di più. Se poi tu ci metti uguale perché se tu che rallenti o aumenti, che cazzo di così sono, secondo te? E lui stessa cosa, più o meno se, a parità di ante, diciamo, se un'ante è un'ante e l'altra, il tempo è lo stesso per lui. Cambia solo il legno invece di essere lungo, non so, un metro e 1,20 m e basta, solo quello. Ah, per lui, ma non per la logica, per lui. Ah, e se pensi che si ascolti questi discorsi che fanno i clienti, per carità. Certo, se non sei un apparato da sveglio, come dicono la carta, ti fanno quella mela. Preventivi spaventosi, per fare due ringhiere, cioè di 500 euro, no, anche 100 euro. E poi forse ti pieno di 150 euro di tinta, quando vuoi fare 25 euro. Ma cosa è spaventosa, proprio che... proprio una cosa meschina, proprio ladri. Sì, infatti le cose che sai fare come che te le fai tu, poi quando non puoi fare a meno chiami un operaio, ma le cose che so fare me le faccio anch'io. Sì, io ti ripeto, io tanto ho fatto queste state manutenzione a casa, ho tinto tutta la stanza, io vado a questi lavori dove ti fare, facciamo fattore, faccio sempre io. Ho tinto tutta la casa, 140 metri quadri, e ho fatto, ho ribricciato le ringhiere, i due terrazzi, ho tinto dopo 42 anni tutte le finestre, le legno di calcio, ho fatto bene. E poi io chiedevo anche preventivi per ogni cosa, sempre per curiosità, per capire quanto sono ladri. Sì, anch'io quando ho preso questa casa, gli edifici erano quelli vecchi, da 100 metri camera, e anch'io ho smontato tutto, l'ho legato, ho portato a legno vivo e le verniciate, e le ho tenute qualche anno, poi alla fine le ho cambiate, adesso le ho messi nuovi con vetri camera, e insomma sono delle cose più serie, dai. Sono rientrato e mi era mancata la corrente, Fabrizio, scusate, dai, riprendi. Noi l'abbiamo lasciato questi perché noi abbiamo anche le doppie finestre, col doppio vetro, quindi non era il caso di metterle in PVC qua, queste sono fatte bene, sono quelle fatte all'epoca di 40 anni fa, queste finestre, lei mi è riveniciata, sono bellissime, poi noi abbiamo anche le doppie finestre col doppio vetro, quindi non ce ne siamo piccoli. Avanti Giulio. Ok, mi ha mancata la corrente, quando stavo parlando, non mi ha potuto sentire, sicuramente è tutto un passaggio, probabilmente. Arrestato. Allora, arrestato mi avevano. Sì, mi ha mancata la corrente, Va bene, comunque adesso vi saluto, che mi hanno chiamato anche per la cena, per cui vi devo lasciare. Vi ringrazio naturalmente per la chiacchieratina, è stato bello risentirti, Fabri, alle prossime. Ciao Franco, grazie anche a te naturalmente della chiacchierata, a Natalino altrettanto e a chiunque all'ascolto, eccetera eccetera. Ci sentiamo la prossima volta. Fate sentire Fabri, la sera già più o meno già ci siamo, un po' tardino magari entriamo, però già ci siamo, diciamo, tutte le sere o quasi. Ciao Fabri, di nuovo, ti riprendi, ascolto fino a io e poi chiudo. Ehi, a Giulio, già ti sentiamo, dai, stammi bene, buona cena e buon tutto, dai, avanti qua. Sì, sì, c'è anche qua me che mi chiamano, comunque se ti saluto, Giulio, alla prossima, grazie anche a te per la chiacchierata. Riprendi Fabri. Ehi, dai, anche io mi sto a poco, faccio così, ti chiudo anche io, così farò a mangiare. Capito, Fra, io me l'ho sempre fatto a casa mia, io ho amici che le fanno, sempre guardato quando facciamo i lavori, capito? Non so Gumacu, io basta che la vedo una volta, un lavoro, poi riesco a farlo, capito? Non lo farò come i professionisti, però, ti ripeto, c'è gente che fa i lavori magari 20, 30 anni e fa molte cagate, non è detto che tu sei 20 anni che fa un lavoro e fai tutto bene, e ne vedi quali ci siete schifette nei cantieri, gente 30 anni che non sa proprio montare. Allora, io una volta ho visto un operaio, qui hanno fatto una facciata, praticamente cosa ha fatto? Prima ha verniciato la parte interna della ringhiera e la moglie ha acciarato, e si è fatto tutti i pantaloni a quadretti da fare. Lui, a cantare lui, ma no? Io ti ripeto, io poi ho tutte le resiste, tutti i cataloghi per comprare i materiali, Ti ripeto, io ho chiesto tutti i preventivi, tre, no? E proprio per capire quanto sono ladri. Cioè lì mi ha chiesto 450 euro di tinta per tingere la casa, poi 2500 di nuovo, io ho tinto la casa con 70 euro di materiale, quello perché io l'ho fatta tutta bianca, ho cambiato colore tipo un verde acqua, poi la cucina l'ho fatto un giallino, capito? Quindi i coloranti costano 3 euro la boccettina, però in tutto compreso il nastro per fare la striscia sotto bianca, il nastro adesivo in carta costava 70 euro, ho fatto tutta la casa, incredibile, e poi voleva 400 euro di tinta che ti leggi a Igego, la tinta era bagnata in oro, era. No, perché poi così i gatti, no, quei gatti di nome di dito, gatti, ma vaffanculo, vai. Signora, qualcuno vuole entrare? Io sono qui a Sassari, Santiago è basso, la radio è... beh, 3. Sì, troppo amplificato, non puoi abbassarlo. Sì, la radio adesso ti capisco meglio, però il segnale è basso, qui mi arrivi Santiago 1, 2. Tu lo senti, Fabri? Guarda, sento che sto parlando, però è basso, tra 1, 2, non riesco a capirlo. Capri, tu lo senti, Fabrizio? È troppo amplificata, anche se non è fortissima, però se la passi è meglio. No, va meglio, va meglio. Tu dove sei? Se non sbaglio sei vicino, vabbè, dillo tu, dai. Sì, adesso ti ho capito benissimo. Sì, sto usando un'antenna autocostruita, no? Quella, la solita, dai. Da 7 metri. Prego. Capi. No, no, va benissimo, sicuramente, guarda, chi ti ascolta con un segnale buono, sicuramente la radio è ottima, perché si sente che è forte, che sta spingendo, vai tranquillo, hai fatto un bel lavoro. C'è stato anche un break, avanti break. Buonasera, l'archi fortunato, coordinate presentate. Niente, ci sono un riportaggio, come sempre, sì, sono sempre fortunato. Fortunato, confermi? Sì, confermo, Franco, confermo. Ok, ben sentito anche a te. In compagnia di Fabrizio, ci sei Fabrizio, lo senti, sì? Sì, sì, ciao, fortunato, ben ascoltato, soluzione. Ok, vabbè, io adesso mi lo chiudo perché sono quasi rotto e vado a mangiare, va. Stai bene Franco, salutone anche a Fortunato e poi fammi saluti a Capri che non sento. Stai bene, avanti Franco. Sì, Capri, confermate, ti saluta Fabrizio. Riprendi, Fortunato, anche tra un po' chiudo anch'io perché mi chiamano anche a me per la carica. Grazie, dai, riprendo io, tanto io per motivi di trabacco devo arrivare. Senti, dai, riprendi pure, saluto anche a me due, perché è proprio la serata. Campa, dai, buona serata, Fortunato, e confermo ancora i saluti per Fabrizio. Buona serata a tutti.